Radio 24 Reportage. Milano, un Expo anche per sport, di Massimo Di Scienza. Mancano 4 anni e mezzo al 2015, l'anno dell'Expo. Milano indubbiamente si sta preparando all'appuntamento. Cantieri in centro ed in periferia, scavi un po' ovunque, promesse di essere all'altezza dell'evento, quello con la E maiuscola. Ma non è di edilizia, né di cultura, né di moda che vogliamo parlare oggi, ma di sport. Perché Milano da sempre ha una fortissima tradizione, verrebbe da dire un'anima sportiva, che nell'Expo 2015 potrebbe trovare un momento di rilancio. Ma come e soprattutto dove fanno sport i milanesi e cosa si aspettano dall'Expo? Siamo andati un po' in giro per la città a scoprirlo. È mezzogiorno di un giorno qualunque di primavera, siamo in Parco Sempione, zona centrale, centralissima di Milano, all'ombra della gloriosa Arena Civica o Arena Gianni Brera, come si chiama adesso. All'interno dell'arena, struttura del 1806, 204 lunghi anni e li dimostra tutti, di solito si allenano le squadre di atletica della città. All'esterno, nel parco, non c'è l'allegro caos del fine settimana e infatti lunedì qualche milanese così ne approfitta per rilassarsi con un po' di corsa. Sì, mi piace, sì. È poco magari, sono delle strutture poco comode, lo so, non c'è un bagno, non ci sono queste cose qua, per cui fontanelle, acqua, queste cose qua mancano, però è uno spazio verde. A noi sportivi basta. Una parola grossa, praticare sport. Vi piace venire però qui in Parco Sempione? Sì, molto carino. Vi trovate bene? Sì, molto bene, assolutamente. Venite bene? Sì, abbastanza. Se riusciamo tutti i giorni. Fate soprattutto, immagino, corsa, footing? Camminiamo velocemente. Sì, vengo 2 volte. Sono del Brasile, tantissimo, sì, abbastanza. Cosa le piace in particolare? Qual è la cosa che le piace di più? Di più? Ah, ma... il parco è più grande, mi piace tantissimo per questo. Noi è anni che giriamo qui in questo posto qui e troviamo un posto ideale per poter muoversi un po', far correre un po', camminare un po'. Ci troviamo abbastanza bene, come dico è 20 anni che vengo qui e quindi non so se in altri punti di Milano mancano le strutture. Qui ci sono, insomma. La vetrina del grande sport milanese è luccicante, ma dietro a Inter, Milan ed Armani Basket, qual è lo stato di salute dello sport praticato a Milano? L'abbiamo chiesto al vice direttore della Gazzetta dello Sport Franco Arturi e al presidente di UISP Milano, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Antonio Iannetta. Beh, se parliamo dello sport agonistico di vertice, quello che ospita i grandi eventi e i grandi sport, la situazione di Milano si può definire realisticamente con un solo aggettivo, depressa. Milano, ricordo, non ha uno stadio dove si possano organizzare degli eventi di atletica leggera, non potrebbe ospitare un campionato europeo, non dico un mondiale o un'olimpiade di pallavolo o di pallacanestro, Milano non dispone di una piscina di dimensioni olimpiche, di uno stadio del nuoto, quindi diciamo sotto molti versanti è quasi a zero, quindi Dio solo sa quanto avrebbe bisogno di una rinascita impiantistica da questo punto di vista, una situazione naturalmente la cui responsabilità risale nei decenni. Ma sicuramente la situazione non si presenta buona, o meglio, sulla città di Milano ci sono numerosi problemi legati all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda invece la provincia ci sono sicuramente delle isole felici che di fatto fanno in modo che l'attività si possa fare anche bene. Per quanto riguarda l'impiantistica c'è la necessità di un intervento strutturale importante, siamo fermi dagli anni 80 e se immagina con esempi concreti che l'arena di fattura napoleonica è l'unica vera pista che c'è a Milano, è ovvio che di fatto oggi noi abbiamo bisogno di andare incontro a una rivisitazione di tutta l'impiantistica pubblica, però con un accento importante, non orientarsi verso i grandi impianti o unicamente verso quel tipo di obiettivo, ma anche valorizzare gli impianti sportivi di base nelle zone, nei quartieri, utilizzando un po' lo sport come strumento di inclusione sociale. E siamo in un altro luogo storico per la Milano che prova a fare sport, la montagnetta di San Siro. 2,5 chilometri di saliscendi tra gli alberi, posto silenzioso, tranquillo, anche se l'asfalto è migliorabile e ci sono soltanto 4 bagni chimici. Abito qui vicino, perciò preferisco venire qua. Difetti pochi. Pregi, comodo, c'è parcheggi, tenuto bene, piacevole, compagnia, non c'è problemi. Io un 2-3 volte alla settimana. Beh, ci piace il verde, ci piacciono gli alberi, ha dei bellissimi alberi alti, bella insomma. Solo qua, questo è un giardino che è unico a Milano, in particolare che c'è poca gente, c'è pace e verde. Sicurezza va benissimo perché io vengo qui da anni e non ho mai avuto problemi. Per quanto riguarda i bagni, una cosa mia personale... Io... Io sono di passaggio perché vivo in Sicilia, io corro 100 e 200 metri per un gruppo master. Qua sembra l'ideale, forse perché mia mamma abita a 200 metri dal 25 aprile, e qui dal parco della montagnetta Stella di San Siro. Io ho abitato qui 23 anni fa, sono nato qui al Gallaratese e giù siamo un po' sacrificati, voglio dire. Anche perché se lei pensa che a Palermo lo stadio è in piena città, non c'è aria verde. Viene spesso qui in questa, questo sì, posto? Sì, almeno 3 volte la settimana minimo, quindi siamo sempre qua. Vengo correndo da casa, poi faccio il mio sport e poi torno a casa. Senta, cosa che le piace in particolare? Eh beh, il verde, l'aria pulita sembra, no? A parte qualche macchina, però si corre bene sulla montagnetta, quindi va tutto bene. Zona nord-ovest della città, il parco di Treno, enorme polmone verde di Milano, chilometri e chilometri di stradine e sentieri che fanno la felicità di chi va in bici e di chi corre. Qui e là qualche improvvisato campo di calcio, tennis e pallavolo. Anche qui pochi i servizi, soltanto 2 bar e pochissimi bagni chimici. È bello qua, vengo spesso, sì, vengo anche d'inverno. Se ce la faccio vengo anche d'inverno. Di meno, ma vengo anche di me. I pregi che è bello, cioè nel verde, diciamo, sembra, ricorda molto la campagna, quindi un posto tranquillo dove poter correre, dove poter stare tranquilli anche in pausa pranzo, quindi dove uno può staccare. E i difetti che purtroppo passo la strada di là, per cui un po' di schifezza ce la pippiamo tutta perché arriva di qua. Beh, questo parco è l'ideale secondo me anche per gruppi estivi, per giocare a pallavolo, a calcio, o per chi è podista, perché c'è a disposizione una pista di asfalto come le strade dove si fa la maratona di Milano. Parco di Treno è attrezzato molto bene, ci sono delle strutture anche di tennis, pallavolo, calcio, strutturato abbastanza bene. Sai, io sono della zona, quindi frequento questo parco e devo dire che è ottimo, se no ci sono i club privati. È vicino casa, solo questo, nulla di più. No, mi sembra anche messo bene, cioè ci sono gli attrezzi comunque qua, hai capito? Ci sono certi parchi che non ne hanno comunque. Non so, lì c'è l'asta comunque, c'è il bel percorso che mettono pure i cartelli. Quindi mi sembra un bel parco, secondo me. Dunque i praticanti che abbiamo incontrato generalmente sembrano soddisfatti degli spazi a disposizione o comunque si accontentano, visto che 2 sportivi milanesi su 3 alla fine devono ricorrere alle strutture private. Lo sport pubblico in città da anni è gestito da Milano Sport, una società per azioni che fa riferimento a Palazzo Marino, che si prende cura di 26 impianti tra piscine, palestri e centri sportivi. Eternamente in lotta con i bilanci in rosso, la struttura fa i salti mortali per far sopravvivere la pratica sportiva in città. Ed ora che arriva l'Expo, che ammette la diffusione dello sport come disciplina per migliorare la qualità della vita nei suoi programmi, arriveranno anche i soldi? Non è detto. Nulla si era mosso fino a metà marzo, quando è stato firmato un accordo tra Comune, Provincia, CONI ed Ente Expo, con l'obiettivo di riqualificare i vecchi, a volte vecchissimi impianti e costruirne dei nuovi. Si parte con 400.000 euro per lo storico campo sportivo 25 aprile, che oggi appare molto malandato. Nei prossimi anni si sceglieranno le altre strutture su cui intervenire, sempre che i soldi ci siano. Sull'impatto di Expo 2015 sugli impianti sentiamo l'analisi di Arturi e la proposta di Iannetta. I 3 grandi impianti sono le emergenze dell'emergenza, per così dire. Vale a dire uno stadio del nuoto, una piscina di dimensioni olimpiche, soprattutto un grande palazzo dello sport, grande, moderno e funzionale palazzo dello sport, e quindi anche uno stadio adatto ai grandi eventi dell'atletica, stadio che comunemente si può definire stadio olimpico. Bisognerebbe calare sulla città una grande rete, in modo tale da mettere in connessione parchi, aree verdi, impianti sportivi e fare in modo che tra un nodo e l'altro ci sia un collegamento, magari sfruttando l'idea della ciclabilità. E infine ancora i pareri dei milanesi su cosa può portare l'Expo 2015 allo sport in città. Penso che sia importantissimo, perché comunque Milano è una città piena di sportivi dove la gente si impegna molto per il proprio benessere fisico, e oltre ai soliti centri istruttivi come le palestre, eccetera. Quindi penso che l'Expo debba lasciare il segno anche in questo senso, cioè fare qualcosa anche per gli sportivi e far vedere che Milano in effetti è una città di sportivi. Secondo me dovrebbero anche potenziarle. Se potenziassero quello che hanno, secondo me potrebbero fare anche bene. Comunque se aprissero anche nuovi cantieri con centri sportivi, con zone verdi, secondo me sarebbe una bella cosa, insomma, soprattutto per l'Expo. Sinceramente, secondo me per Milano, se rimettessero bene a posto i parchi, se facessero delle piste ciclabili e cose del genere, alla gente basterebbe già questo, quello. Senza grossi impianti olimpionici o cose di questo genere, perché alla fine vieni al parco, se hai un'ora per camminare o correre, se hai una situazione ideale, bene. Vedendo anche gli altri parchi in Europa, non so, vedi Londra, vedi altri posti, insomma, sono più attrezzati sicuramente. E la gente è anche più portata probabilmente a fare sport quando si trova delle strutture. Qui è un po', sì, messo lì, un po' abbandonato. Anzitutto, insomma, la struttura deve essere adatta a degli sportivi, se vuoi che ci vengono. E poi soprattutto un po' di sicurezza, perché io sono un uomo, una donna che viene a correre qua da sola, insomma, magari un po' di difficoltà le trova. Tu ti aspetti che per lo sport venga fatto qualcosa? Spero. Non so, qualcosa in più secondo me ci vuole. So, arrivano i turisti così, non so cosa vogliono fare come progetti, dicono vogliono mettere più verde, sa, il verde con niente dentro comunque serve a poco secondo me. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.